videoturista che arrivi, ti imbevi dei fori ed escavi, poi tutto d'un colpo te trovi, Fontana dei Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringi il destino a fatte tornare. E mentre il soldo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si riveda spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con una voce smarrita mi ha detto, è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e mi sussurrò, arrivederci Roma, non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e sognerò.